filmando sulla provincia di Catania, Rap, buon pomeriggio, Salvatore saluta, Rap, settimana, buon pomeriggio e buona propaganda, salutando a Corriere, benvenuto a Macedonia, Salvatore saluta, Rap. Atento R6. Vamos a estar con el cuadro. Largando. Pronto, vamos. Que va. Chi è avanti? Chi è? Chi è? Chi sei, Franco? Ehi, ciao Natali. Ciao Fra, buonasera. Ehi capo, come la siamo diversa stasera, Cosa hai detto? Non ti ho capito bene. Sì, più basso, forse c'ho il volume troppo basso. No, va bene. Del radio non lo so. Il segnale può essere perché sto usando il watt solo della radio. Niente, ho detto, c'è una modulazione diversa. Ma meglio o peggio è? No, mi piace di più questa, più piccante. Ah, cappa, e questo è quel Turner più 3 che ne l'ho tolto perché non amplifica molto quell'MB più 4. Deve avere qualcosa, il microfono. Ehi, cappa, ma va bene questa la radio, è buona. Io ti ascolto perfetto. E K, anche io ti ascolto perfetto adesso. Forse c'avevo il volume troppo basso poco fa. Ehi K, no, io sto usando il Galaxy con l'MP5. Non lo so se da te la modulazione, l'amplificazione è buona. Sì, sì, ero io che avevo il volume basso della radio, capito? K. No, la tua modulazione mi piace, si sente che è una bella, che è un microfono come si deve, perché c'hai gli acuti un bel alti c'hai del microfono. E il Turner è così. Ecco, è il mio, non ho trovato più un pezzo ed è sempre fermo. E questo è quello grigio, è quello americano che è scritto in inglese, capito? Questo è l'originale. Ehi cappa, è uguale al mio, è quello grigio scritto in inglese, quello lì è uguale al mio. E allora è preciso, è là. Ehi cappa, solo che non trovo un pezzo, si è bloccata. Non funziona più e ci vuole quel pezzo lì e non riesco a trovarlo da nessuna parte. Io dico, sarà più mano di me il microfono, boh. Io credo che non riesce a ciapparlo. Sono pezzi di roba vecchia e non si trovano più i pezzi. È come nel radio, vai, una volta che arrivano a una certa età poi i pezzi non ci sono più in vendita. C'è un amico mio che ha due Iaesu di quelli grandi, tutti e due fermi perché non si trova nei pezzi, se no se li avrebbe aggiustati, che è un tecnico questo amico mio, purtroppo pezzi misba e c'è e na due arrumbati, sono due precisimi. Vedi. Purtroppo è così, quando cominciamo a avere radio vecchie è così. Tu prendi Galaxy adesso, secondo anche di là riesce a simulare, magari c'ha dei pezzi, delle cose così. Seconda che li mandi a certe assistenze e ti dicono no, non si può aggiustare, te lo rimandano indietro, perché i pezzi non li vendono più. Purtroppo è fatta così. È come noi, è come tutte le macchine, purtroppo quando arrivano a una certa età le case smettono di fare pezzi e poi vanno in diciamo a rottame, no? Ma è strano, io ho questo MBT4 che non amplifica, boh. Bisogna mettere la manetta per funzionare, capito? Questo è a metà il turner e sta andando ugualmente, invece quello se lo metto a metà è basso di radio. Magari è qualche, potrebbe essere anche qualche transistor, quel transistor piccolino che c'ha all'interno, oppure qualche altra cosa. Magari c'è qualcosa alla scheda che se non ti amplifica. Ma secondo me è il potenziometro del volume che non funziona. Ed è nuovo nuovo in scatola. Chissà cosa, ma la sorte gli ha preso. Ah, la faccia, nuovo nuovo, addirittura. Prova, al limite puoi provare una cosa. Fagli provare un altro potenziometro che funzioni in un altro microfono. E non ne vendono neanche di quei potenziometri del volume dell'MB4, mi capito? Magari un MB4 vecchio, un MB di quelli vecchi. Vai e trovalo tu. Ecco, perché se è quello, ci credo molto, non ci credo molto che sia quello lì. A meno che non c'ha dei, come si chiama, delle resistenze in quel potenziometro, che si sia bruciata qualche resistenza. Ma può anche darsi. Bisognerebbe controllarlo a vedere. Infatti, magari è una cavolata e va bene. Cazzo, è strano, un uomo così che faccia quel difetto. Guarda, questo l'ho comprato nuovo da Fusaro, l'anno scorso l'ho preso. Ed è sempre nuovo. Guarda, ti dico la verità, la tolgo solo dalla scatola quando lo devo usare. E poi, quando non lo uso, lo prendo e ce lo rimetto dentro. Anche io ce l'ho la scatola, anche questo era nuovo. Nuovo, in scatola, eppure non amplificheggia. Abbaida un poco. Fatelo controllare, oppure guarda tu cosa può essere. Magari è una resistenza, una cosa che è da poco, va. Ma dimmi una cosa, con tutto questo problema, è bene che ascolti così. Sì, che ti ascolto bene io, non c'è problema. Ti ascolto benissimo, questa antenna è una belva confronto all'altra. Un guida va più sempre Santiago 7 di QRM, invece questa anche quelli piccoli già li sento, capito? Sento sempre la propagazione. Se ieri mi hanno coperto uno di Udine, mi hanno coperto quelli di fuori. Cappa, sì, ma anche a me, a volte io qualche sera non entro perché vi coprono tutti da Sassari a qua, no? Vi coprono tutti. Allora, l'unico che mi arriva più forte di tutti da Sassari è Gianni, poi c'è Massimiliano, lui gli unici che non mi coprono, ma gli altri mi coprono, tutti mi coprono. No, ma io sento bene a tutti adesso, io avevo anche problemi col cavo oltre che con l'antenna, era diventato tutto nero, sia la calza che il polo caldo, capito? Guarda, era un macello quell'antenna, mi entrava l'acqua quando pioveva e non potevo modulare perché c'avevo due e mezzo di stazionario. C'era così da lì, è ovvio che è evidente che c'era anche Ursino, di tutto c'era lì, è ovvio che le stazionarie andavano su, che andavano. E, vedi, adesso invece stai andando molto meglio, stai andando, arrivi molto meglio di prima e più ricevi anche molto meglio di prima. Non c'è confronto. Questa l'antenna è silenziosa, confronto a quella là. Là sempre 7 di QRM fisso, vedo. Sto usando una Game Master e sta funzionando benissimo. Cappa, sì, ho sentito cosa hai installato. C'è anche bella come antenna. Quelle sono molto migliori, perché migliori, diciamo che non è radiale, non è niente, non fanno TVI, non fanno niente, sono le migliori assoluto per chi specialmente fa TVI, dai. Cappa, c'è gente diffusa, lo sa la propagazione che c'è, bra. Ne è arrivato uno a bomba qua. Cosa ti volevo dire? E poi a quella, quello che disturbavo gliel'ho aggiustata, mi non disturbo più. Gli ho aggiustato l'antenna che era tutta un casino. Ehi cappa, vedi a vedere se adesso quella bomba mi copre. Penso di nuovo a Sassari. No, non ti ha coperto, però è arrivato forte lui. Cappa, vai. Piano piano, da chi facciamo sentire Natali. Amante che vuole entrare, che per due volte ha schiacciato. Negativo. Due volte hanno schiacciato la portante, però sempre zitti. Va bene. Vuol dire che non ha voglia di entrare. E a me mi danno i nervi questi che fanno così, schiacciano e non parlano. Boh. Cappa, dai, magari stanno provando qualcosa, stanno provando e rimangono zitti, dai, no? Magari stanno facendo qualche lavoretto. Può anche darsi. Oh signor, adesso mi ho fatto il ripiano qua, bene, me l'ho fatto bello largo, perché mi veniva male. Quelli là erano troppo stretti. Ne ho un altro e me lo metto sopra dopo. Quando mi devo buscare le staffe che sono troppo corte, queste che ho io qua. E mi busco le staffe più lunghe, là. Cappa. Io stesso mi sto facendo un piano sulla mia scrivania per metterci il Galax e le altre radio sotto e tenerle un po' sollevate. E poi me ne butto giù l'antenna e vi faccio un controllo, gli faccio, perché c'ho in certe bande, non certe bande, in certi punti c'ho sempre sulla 27, c'ho stazionarie sino a 1.3 e le voglio ricontrollare. E cappa. E poi vediamo, ok. Niente. E tu Natali, tutto bene la storia che stai facendo, sì? È difficile, però ieri sono stato tutta la mattina studiando. Bene, lo so, è molto difficile. Infatti io ci avrei anche provato perché mi sento di non farcela. Ma cosa vuoi che ti dica? Io lo stesso sono grande di età, sono lontano dai banchi di scuola chissà quanti anni, però è in salita, diciamo così, non è come prima. Prima, guarda, lo sai che ne sapevo un sacco, prima ne sapevo molto, però mi sono dimenticato tutto, la verità si dica. Anch'io non sono piccolino, Natali. A me mancano 2,70, Più grande di me sei. Non lo so, Natali, come sei tu. Io sono del 57. Allora sono più grande, perché adesso è un 54. Esatto. Io sono quanto è quel collega tuo, quell'ex collega tuo. Capo, sì. Allora sono un po' più grande tu, un 3 anni più grande. Vabbè. Quindi non sono piccolo. Fare queste cose qua, adesso ci proviamo, speriamo di riuscirci, perché sarebbe una soddisfazione, là. Capo, sì, quello sì, Natali, ah sì, ti ammiro per quello che stai facendo, perché all'età tua non sono tutti che si mettono a farlo, Infatti. Io sono quanto è Walter di età, e a mettersi all'età mia non è tanto una cosa facile. Capo, però è bello se si riesce, io te l'auguro con tutto il cuore. Grazie Franco, cosa vuoi ti dica? Un amico mio che mi sembra che adesso è morto da poco, l'aveva presa grande lo stesso quello lì. Sì. Provaci, diciamo che io volevo tentarci dall'anno scorso, poi perché mi stava spingendo l'amico, poi ho detto no, bombata, la gabola, all'età mia, ho detto mi muovo a pigliare la cosa, lo dovevo fare da ragazzo, da quando ero più giovane, queste cose, non adesso. In effetti va bene così, va bene. E io anni fa, prima che si ammalasse mia madre, ci stavo tentando, però poi non mi sono potuto presentare perché mia madre si era ammalata e quindi non mi sono potuto presentare, se no non l'avrei avuta da adesso. Ero iscritto all'Ari di Porto Torres. Capo, vedi, dovevi trovare uno spazio tra uno e l'altro e magari farlo, oppure dopo tutto rimetterti, invece poi ti sei fermato. Perché dopo nel frattempo si è ammalato anche mio padre, ce li avevo tutti e due io a casa mia in campagna, invalidi, e non potevo fare nulla, capito? Ho dovuto chiudere l'attività per stare appresso a loro, perché dovevi fargli la guardia 24 ore su 24. Capo, ti capisco Natali, ti capisco su quelle cose, perché è il primo assoluto che viene quello lì. Purtroppo succedono anche queste cose, come loro, succede a noi, succederà a tutti in generale, perché siamo sulla terra, e poi il clima che abbiamo adesso fa schifo. E poi ne sono successe di tutti i colori. Gli ultimi 2 anni non bastava il Covid, sono stato da un ospedale all'altro, guarda, ti giuro, un calvario, fra. E adesso mi sono deciso che mi sono rimesso un po' e vediamo un po' se ce la facciamo. Sarebbe una bella soddisfazione, perché da SWL ho qualche diploma, l'ho fatto. Capo, ma guarda, io la verità, eppure c'ho da tanti anni c'ho SWL, sì, ascolto, faccio ascolto da quanto, però non l'ho mai fatto, non mi sono mai insegnato per fare di più di queste cose qua, mai. Sì, io li ho fatti, poi in campagna avevo tutte le antenne, mi avevo costruito queste antenne che erano una favola qua. Venivano anche degli amici e si faceva una beffa dalla mia stazione, tutti i radioamatori erano, infatti ne conosco molta di quella gente lì. Che strano, ma mi sembra... Purtroppo, cosa vuoi fare? Non ho avuto il modo di dare l'esame. Capo, dimmi una cosa Natali, ma per fare radio come WSVL dovresti fare qualche esame? Non ho capito. per fare radio, come hai detto tu poco fa, per fare qualche diploma, qualcosa del genere, con l'SWL, devi fare qualche esame. No, negativo. Quando ci sono i contest, li segni, gli mandi il log, se loro controllano se tu, se realmente tu hai sentito quelle stazioni lì, ti mandano il diploma. Ah, cazzo, sì, ho capito. Ho capito, devi stare lì a ascoltare questi contest. Devi segnare la data, l'ora che li hai sentiti, i nominativi, tutto, nell'on, lo metti e poi lo mandi a quelli che hanno organizzato il contest, no? E quindi loro controllano se è tutto ok, ti mandano il diploma, capito? E ne ho fatto, qualche uno l'ho fatto. Sì, ho capito, devo controllare il momento, ora e minuto di quando stanno modulando e mandarli a lui, a chi organizza il contest. Infatti, sono diplomi arimi. Sì, quello ho capito, perché io li ascolto spesso questa gente qua. Ho capito, adesso mi sono fatto due diploli e li ho messi così, adesso vediamo se riesco a ascoltare, perché non sono sul tetto, li ho messi fuori dalla finestra, due diploli lunghi ho messo, uno per qua e uno per ascoltare a loro. Anche io ne ho uno che fa 10, 20, 30 e 40, ne fa. L'ho salato, quando è? Una settimana, dai, l'ho salato. E mi arrivano segnali a bomba sull'altra radio, mi arrivano. E ogni tanto ascolto lì. Ho capito, dai. Io ne ho messo due con lo stesso cavo di discesa, con i contrappesi. Adesso vediamo un po'. Non li ho provati perché le radio le ho date, perché mi avevano messo nel mirino, capito? Per essere tranquillo, non c'è più nulla qua, c'è solo questo omologato e un ricevitorino che ho per le bande di su e basta. Così sono in regola, capito? Vabbè, ma le potevi sempre mettere al sicuro quelli, senza venderteli. Forse potevano mettere anche da un'altra parte, mica quando vengono ti controllano tutto l'appartamento. Non lo so, l'ultima volta che sono venuti qua mi hanno messo la multa, mi hanno sequestrato il baracchino omologato che avevo, mi hanno sequestrato ancora quegli apparecchi, non ce li avevo, mi hanno sequestrato un rosmetro, mi hanno sequestrato, solo quello valeva 150 euro, che era un rosmetro della Daiwa, bello, e me l'hanno sequestrato perché non era marcato CE. Ma secondo me hanno fatto una bastardata, l'ho fatto lì. Ma vabbè, qualcuno, perché io avrei voluto vedere dove vanno quella roba lì. Purtroppo noi non lo sappiamo dove va, perché loro dovevano sequestrare e poi ridarteli dopo un periodo, ma invece non te ne ritornano più. Ma non pensano. Per quel rosmetro, vasmetro, già mi è dispiaciuto. Quello lì costava 150 euro se non di più. Un rosmetro della Daiwa era bello, col quadrante grande, gli aghi incrociati, ma lo sai quanto era bello? Lo so, ne ho due io, anzi uno me lo sto vendendo perché è VEU e ne ho fatto un errore comprandolo, ed è sempre dentro una scatola, è nuovo, e ho fatto un errore, al posto di prendere per la HF l'ho preso VEU, l'ho preso, vabbè, lo venderò un po' di meno, ma lo venderò lo stesso. E poi c'è l'altro, HF, che sempre tutte della live ce li ho io, e a parte la corda, una cordatura della ZG. Ho capito. Vabbè, tutto quello, se mi stava portando via anche l'alimentatore, cata, meno male che l'alimentatore era marcato CE e non me l'hanno toccato, se no anche quello, tutto questo che attacca dall'antenna di Sirubucciare, ma ne va un bururu verbale, che... Sì, tutto quello che è attaccato all'antenna se lo portano via, ma quello che non è attaccato non lo possono toccare, capito? Non lo possono toccare, perché se io ho lo scaffale, ho la radio, anche radio radioamatoriali, loro non li possono toccare se non vedono quello, non c'è né il microfono, né il cavo d'antenna e né il cavo d'alimentazione, che non si è alimentato, non lo possono toccare. Perché sono radio che io magari non uso, non possono essere anche le mie, e sono lì, ferme. Oppure mi piace fare, di averle tanto per esposizione, cosa c'entra questo? Sono radio che mi ho comprato per bellezza. Poi del resto, basta che tu mi trovi a me, che muovo con una radio, normale, va bene, dovrebbe andare bene. Un baracchino, perché io sono un CB, un baracchino, come i radioamatori, se li beccano parlando 27 con un HF, gli fanno cosa? Anche a loro, gli fanno il verbale. È la stessa cosa. Lo so, ma cosa vuoi che ti dica? Vediamo un po'. Certo che già mi dispiace, me l'hanno sequestrato quel wattmetro, l'apparecchio mi hanno sequestrato, che era un apparecchio da niente, mio omologato era, solo che non aveva la marca CE e allora era appena uscita la legge che dovevano essere tutti marcati CE, se no te li sequestrano, perché non li puoi tenere se non sono marcati CE, capito? Sì, lo so, quello io lo so, e purtroppo ormai è così, infatti tutte le cose che ho io che posso usare sono tutte marcate CE, c'ho il 48 che è omologato e marcato CE, l'ultimo, perché sono uno degli ultimi che hanno fatto, da quando hanno fatto il marchio CE, e poi c'ho microfoni per dire tipo lo ZG, sono tutti marcati CE. A parte quelli che non puoi usare, quella roba che non puoi usare, quella non è marcata CE. Infatti, ho capito, e cosa vuoi che ti dica? Purtroppo è così. Vabbè, fra, cosa vuoi che ti dica? Mi avevano messo nel mirino, se, quando stavo piazzando l'antenna, no? Come l'hanno vista, cazzo, questa disturba di più, questo, di là, a te l'immagine, l'antenna noi da manco piazzarla, ed ero senza manco l'altra antenna che mi avevo varata. Natalino, di queste cose le abbiamo avuto un po' tutti. Io quando nel 90, quando mi ho piazzato la Mantova 1, no, la Mantova 5 nel 90 mi ho preso, la Mantova 5, perché prima avevo la 1, poi mi ho piazzato la Mantova 5, quando ho messo la Mantova 5 lì sul tetto, stavo disturbando, mi hanno chiamato anche i carabinieri, allora sai, davvero io quando mi hanno chiamato i carabinieri che stavo disturbando, e questo è il mondiale del 90, io ero a Torino, e io stavo disturbando il televisore a questo qua vicino, e mi hanno chiamato anche i carabinieri. Vedi, non c'eri neanche tu, e cosa vuoi dire? No, io già disturbavo davvero perché avevo controllato, ed era questo uomo vecchio e purtroppo non mi faceva entrare, poi la figlia mi da poco mi ha fatto entrare, sono entrato, l'ho controllato l'antenna, era tutta messa per i cazzi sui. L'ho preso, gliel'ho rifatta come si deve e non lo disturbo più. Era un uomo anziano e mi dispiaceva anche disturbarlo. E quindi evitavo. Quello sì, è vero. Vabbè, le cose però quando si fanno in due e uno capisce, delle cose. Vedi un po', se io ti dico a te come tu hai fatto, signore, e te la guardo l'antenna, poi vedrai che non mi disturbi. Se quello lì accetta e poi vede che il risultato che non disturbi, evidente che non era l'antenna mia, era l'antenna tua che ti disturbava. Infatti, ma quello poveraccio diceva: tu non devi parlare, non mi devi disturbare a me. Hai capito? Anche lui aveva ragione. Sì, aveva ragione anche lui, questo è naturale. Però vedi, a volte delle cose, perché io ti dico una cosa, io la mia televisione non la disturbo e non disturbo a nessuno qua vicino. Però quando mi accorgo, come mi è successo l'altra sera, che mi stava disturbando la mia, se disturbo la mia vuol dire che disturbo anche gli altri. Quello è poco ma sicuro, Io la mia non gli faccio niente, assolutamente, ma anche con l'altra antenna non disturbavo, perché era l'antenna di quello lì messa male. A me mi hanno mandato domenica scorsa, mi sa, o due domeniche fa, anche i vigili del fuoco, perché dice che oscillava troppo l'antenna. Infatti quello del terzo piano già me l'ha assicurata. Bene, però cazzo, per dire, mi hanno mandato anche i vigili del fuoco a Cineggia in Timara ai Noghi. Natale, per quello che è successo, tanto che ti è successo, non lo so se è proprio la gente cattiva oppure se c'è qualcuno che sta spingendo. Ci sarà anche gente che spinge, non lo metto in dubbio, però a me mi hanno messo nel mirino, si è dovuto dare tutti quegli apparecchi lì, un peccato erano. Capo, perché magari qualche vecchio lì, qualcuno dice che gli disturbi, lo dice agli altri, lo dice a quello, e tutti se la prendono con te, capito? E non è quello il discorso. Poi è venuto qua a abitare un amico mio, ha acceso la televisione proprio per vedere se lo disturbavo e non rivolto nulla, era di fronte a me proprio, nell'altro palazzo, e non lo disturbo assolutamente. Figurati se... purtroppo la tarina. Ma è così, dai, il mondo è stato, da quando io ho iniziato, il primo ho iniziato a modulare tanti anni fa, poi già lo sai, ci conosciamo tanti anni in frequenza, e lì c'è stato sempre quello vicino che ha sempre rotto le scatole. Purtroppo a me mi hanno chiamato varie volte in caserma. In caserma mi hanno detto, dice, io non so che lei è autorizzato, c'ha tutto questo, c'ha tutto questo. Addirittura un anno, nel 90, quando mi hanno chiamato, che sono ritornato da Torino, mi hanno detto che mia suocera mi ha detto, dice, guarda che tu vedi i carabinieri in caserma. Sono andato e avevano la concessione mia già sul tavolo, c'aveva il maresciallo. Dice, io non so che lui c'ha l'autorizzazione, c'è questo. Certo maresciallo, c'era sul tavolo. E certo che abbiamo la copia. Allora ti ricordi che prima, le autorizzazioni di prima si facevano tutte con marche da bollo e via. Era un libro, era in pratica. Già lo so, perché quando sono venuti qua è entrata prima la questura e poi loro appresso, quando sono venuti, e ci avevano tutto in mano. E certo che ci hanno tutto in mano, perché loro lo sanno che tu sei autorizzato, e se hai una concessione. E purtroppo però la gente parla, infatti il maresciallo a me mi ha detto, dice, e purtroppo lì disturba il suo vicino, disturba. Non lo devo dire, però è un suo vicino, però non mi ha detto il nome, non mi ha fatto nomi, un vicino immagino bene. Fra, purtroppo è così, non te ne dico, non ho chi è stato a denunciarti. Per saperlo bisognerebbe fare il processo e poi lo diranno al tuo avvocato, però per dire, non te ne dicono loro, se no violano il segreto d'ufficio, capito? Ma io l'ho scoperto subito però, perché io poi ho tirato giù l'antenna Come ho tirato giù l'antenna? Ah, allora la rubo un prende. Diavolo capisce, dice carabinieri, quando vai ai carabinieri, a voce grande giù, no? Quando vai ai carabinieri dice te la fanno togliere. Ma ce l'avevo tolta per le altre cose, l'avevo tolta, perché avevo dei problemi inflazionari. Poi l'ho preso io e l'ho lasciato 2 giorni a terra. Perché allora sì, tu che mi hai denunciato? Aspetta appena. E allora gli ho messo altri 6 metri di palo, gli ho aggiunto, e l'ho tirato ancora più in alto. Sì, infatti, sì. Hai scoperto perché lui si è vantato lì. Ma vabbè, e cosa vi vorremmo fare? Niente ci puoi fare. Infatti una volta c'era, non so se ti ricordi, Pietro, povero Pietro, braccio di ferro. Sì, che me lo ricordo. Fra, già me lo ricordo già. Sì, e quanti anni so che si assuria. Un bel anni. Infatti Pietro un giorno gli ha detto, dice Fra, quello che ti ha denunciato, non intende Jos, quello di Zende. Ah, vero? Dice ragione, vai tu. Poi una volta mi ho messo un filare, fatto alla cavolo, proprio, in modo che disturbavo. Mi ho messo un accordatore che ha disturbato un buco. E me l'hai fatta fuggia. Ah no, ma come no? Allora ero per dirgli, ero lì, adesso buio. Ma comunque quelli là si hanno cambiato l'antenna, lo stesso quelli che mi hanno denunciato, non disturbo più a nessuno adesso. Meglio così Natali, meglio. Capo, ho sentito che si vede dal ponte Rosello, e ancora non ci sono passato. Quando capita, sono passato anche oggi, però sono passato dall'altra parte. Dall'altra parte non si vede niente perché ci sono tanti alberi. Aspetta. Ehi, vai. Ma vedono i carabinieri che dice il numero che non vengono, che dice via. Chissà cosa stavano cercando. No, magari stanno cercando qualcuno e non riescono a individuare il punto. No, ma sono scesi giù adesso. Perché io... Oh, Natali! Dimmi, Fra. Capo, ieri ti stavo ascoltando per una cosa. Ma tu hai punteggi di invalidità? Sì, signore. E il cartellino, non ce li hai punteggi per il cartellino? Per avere il cartellino dell'invalidità, io ho il 75%. Il cartellino te lo fanno. Ma cosa ne so, penso di sì. Allora, vai e informati. Se tu c'hai i punteggi per farti il cartellino, ti puoi far fare lo stallo per il parcheggio vicino a casa tua. Lo so. Infatti. Io ho il 75%. Prendo anche l'invalidità civile. E allora vai e fallo, così non devi correre da un punto all'altro per la macchina, per il parcheggio. E dove si va però? All'INPS si dovrebbe andare, penso. Guarda, questo non te lo so dire, perché la riconosco, il comune ce l'aveva, poi gli hanno abbassato i punteggi, non lo so se ce l'ha ancora. E lui poteva fare lo stallo, capito? E non solo, lo puoi fare anche personale. E infatti, vedo di informarmi, Fra, grazie per l'informazione, vediamo un po' se si può fare, se no sarò costretto a metterla nei posteggi a pagamento la macchina, perché qua è veramente un macello e a me l'anca purtroppo mi duri, è un bel puro quando cammino. Capo, ma se come stai dicendo tu che c'hai i punteggi e tutto quanto, io penso con 75 te lo fanno, te lo fanno proprio di fronte al tuo portone, te lo fanno, vai tranquillo, perché io ho un cognato e un nipote che è così, che c'ha i punteggi e tutto quanto, c'ha il cartellino e ce l'hanno davanti al portone. ma ti fanno anche una carta per gli invalidi, che io sappia. Adesso bisogna vedere, bisogna informarsi, Fra. Ecco, informati perché, oppure se conosci qualcuno che è invalido, che c'è il cartellino, come ha fatto, come l'ho fatto, ti fa indirizzare, dai. Infatti, e così faremo. Fatelo subito, perché è una cosa, guarda, è una cosa che non è bella, non è bello uno che non riesce, perché io mi immagino il nostro amico in comune che quando non ce la faceva più, caspita, camminare era un casino, era. E mi immagino che dura. Non dirlo a me, mamma mia, un calvario, ma lo sa che molte volte ce la devo posteggiare molto lontano da qua, devo andare a piedi a prendermi la macchina. Cazzo, sì, da lì, informati, perché guarda, pure vedrai che ti viene tutto più facile, perché è per uscire in macchina quando vuoi e quando non vuoi, anzi, tanto il parcheggio lo troverai sempre. Quello è poco ma sicuro, poi se ti occupano il parcheggio basta chiamare il vigile e la rimuovono la macchina. Certo, allora se la fai nominativo con il tuo numero di targa non può parcheggiare nessuno, neanche un invalido può parcheggiare. Si può parcheggiare solo 5 minuti, mi sembra, 10 minuti e basta. Noi se lo fai normale, se c'è un altro può parcheggiare e tu devi aspettare che se ne vada quello. Già lo so. Ecco, certo, come sempre. Adesso vedo un po'. Mi devo informare a vedere come si fa e me lo faccio mettere proprio qua sotto lo stallo degli invalidi, in modo che io il parcheggio lo trovo sempre. Non è possibile tutto quello che sto passando io. Oggi lo stesso dovevo fare una commissione, sono dovuto andare fino a Biasorto a prendermi la macchina a piedi. E adesso? Cazzo, vedi, è un po' di strada. Io non so che punto abiti tu in quella via, però più o meno so dove sei, però dovrebbe essere o a metà o più in giù, non lo so. Però ti dico una cosa, falla, perché io ti ho sentito dall'altra volta questa storia, che andavi con la macchina là e là, cazzo, ma poi mi dimenticavo sempre di dirtelo quando ci sentivamo. Ha detto, quando mai se c'è l'invalidità non gli fanno il cartellino? È una cosa strana. E così è, Fra. Io temo a prendere la macchina perché non trovi parcheggio mai qua. Se c'era uno in moto stamattina, vira rubarcheggio, ribaru, e tu trenta rubarcheggio, giusto? E mi devo mettere io qua, no, guarda, vattene qua o mettila sul marciapiede la moto, che mi devo proteggiare. E se ne è andato, manco male. Se no me ne ero parato dalla macchina e l'avevo cotto anche più di coso, di vacculo, mi, che non me l'avevo fatto. Oggi ero fuori dalle grazie di Dio. Vabbè, a volte gli altri fanno incazzare, questi che si mettono in moto lì. La moto la puoi parcheggiare anche sul marciapiede, anche se passa il vigile non gli fanno niente. La macchina è diversa. Allora, in moto i ragazzi, se ne vedi da dentro un parcheggio ribaru, ma dimmi tu, ha detto, ma non ti andi in pressa, la giovata, che è pizzina, che mi stai occupando il parcheggio, che qua, io sono residente qua, Giuditto, e se ne è andato, li avrei chiamato i vigili mi stamattina, se non se n'era andato e mi aveva fatto agitare anche in seconda fila, mi l'avevo da Dio, tanto. Cazzo, va bene, dai, va bene, Natali, mi ha fatto piacere di fare una bella conversazione, vado a fare un caffè e poi me ne vado un po' giù, me ne vado, che c'è un po' di caldino qua, c'è, e giù c'è più freschetto, in taverna. Ci sentiamo, Natali, alla prossima, buona proseguo di serata, se va tutto bene ci sentiamo più tardi. Va bene, Franco, dai, Buon tutto, alle prossime, grazie per le quattro chiacchiere, ci sentiamo alle prossime, dai. Cosa c'entra che mi chiamano? Ciao Natalie, saluto mia che famiglia, ci sentiamo. Non ti dimenticare quello che ti ho detto, fallo. Sì, allora mi informo. A chi si mi spetta, mi lo deve ne va fai tutto. Certo, se ti spetta te lo devono fare. Perché io mi ricordo che il nostro amico ce l'aveva. Ho capito. Gaffa, ciao ciao. Ciao ciao. CQ10, c'è qualcuno in ascolto? Chi è avanti? Cuocomane. Cuocomane sarà lì, ha capito? No, io non sono più Cuocomane, sono Perivella. Ciao Calà, buonasera. Ciao Antari, buonasera. A me, c'è nessuno. Tutti al mare sono, in ritardo. E tutti a mostrare le chiappe chiare devono essere. Che vuoi che ti dica? Un bel carro c'è fuori, parecchio, parecchio. Ma storia. Anda bene vedo, da. No, io stavo parlando poco fa con Franco di Sorso. Ho sentito. Fallo. Bisogna vedere se mi spetta, Cla. Se non hai detto ti spetta, sì. Per forza ti spetta. Se prendi la pensione di validità ti spetta. E allora bisogna andare a informarsi a vedere cosa bisogna fare. Polizia municipale. Polizia municipale. Capito? Vai alla polizia municipale e poi ti dicono cosa devi fare, che i documenti ci vogliono, li porti e poi l'ufficio manutenzione ti fa lo stallo, ti traccia lo stallo sotto casa tua, proprio sotto casa tua. Mi cappa. Capito? Poi se arrivi che trovi qualcuno, chiami a Brutti e lo fa andare via. E stamattina c'era uno in moto, un cribo, ma dado che... Chiami a Striscia la Notizia, arrivi Brumotti e muore la metà è andata la cappotta. Vai, adesso mi ricordo che ufficio è, comunque devi andare al comando di polizia municipale. Capito? Chiedi, devi fare la richiesta, però stanno invalidi. E ti dicono loro cosa devi fare. E così hai risolto il problema, esci e torni quando vuoi. Infatti stamattina per prendermi questi due cosi, per farmi questi ristriani, sono dovuto andare in via Sorso a pigliarmi la macchina a piedi. Tutto ti spetta perché c'è la pressione maledetta, forte documentazione, poi c'è anche diabetico, quindi ti spetta, non c'è problema. Capito? Ti spetta. E te lo fanno lì proprio vicino a casa. Mettono il cartello. Adesso è difficile che occupano lo stallo invalidi perché ci sono 5 punti alla patente e c'è una multa salata, capito? E infatti. Ma oggi c'era uno in moto, c'era il parcheggio libero, è vero che si è moto e non se ne vuole andare. Ma è moto, vai e mettila sul marciapiede a giudizio la moto. Cazzo, infatti l'ho acciappata anch'io lo barcheggio. Perché se no manco oggi venire a barcheggio, non c'è posto di nulla. Vai, siamo belli residenti, capito? Siamo belli residenti. Però se ti informi, ti ho detto, al parcheggio del mercato ci sono gli stalli invalidi anche, ora ci te lo dicano ancora i vigili, capito, visto che abiti lì, e ti fanno usufruire dello stallo invalidi dei parcheggi del mercato. E anche così mi va bene, al mercato già è vicino. Ci sono dentro il mercato, lo stallo per invalidi, capito, quindi non c'è problema. Lasci che sia già, che ci siano già e che si possano dare. Ti devi informare, Natali, vai al comando dei vigili e informati. È l'unica, eh. questa radio buona è, sto usando il Turner, quello grigio, i 2MB più 4, non è l'apparecchio, non è un microfono e non amplificheggia. No, questa va bene, anche io sto usando il Turner più 3, però il Turner più 3B, quello non era, col Galaxy, capito? Sto usando quello lì. No, quello va bene, è una grande, un'altra lì, non c'è problema. Va bene così allora, là. No, questo adesso è meno della metà, se lo alzo amplifica ancora di più. Va bene, no, questo è ottimo, va bene, lascialo stare che va benissimo, una grande. Dici che è metallica la radio, ma il Turner ce l'ha che è un po' metallica. No, già metallica, già va bene. Già va bene, e anche questa mi ha detto che è anche troppo spinta, ma fottino da me, io questo c'ho e questo uso. E infatti, me, questo c'ho e questo uso. cosa vuoi dire, un vizio omologato, che tanto uno... Anche l'MB più 4 qua lo devo controllare perché c'è qualcosa che non va. Ehi, vabbè, microfoni da due lire sono pronti a fare il loro lavoro, dai, non c'è problema. No, dai, c'è un band, vende, non c'è un Buddha, questo è abbinato qua e lo lascio qua, poi chi non piace se la cambia, ma non me la fottuta, esce benissimo questo e lascio questo. Ehi, appunto, anche questo è lo da Rinocchi, già andava. Benissimo, stai sempre già bene, prendi, ne ho altri microfoni, basta uno e lascio questo qua. Cappa, mi ho piazzato questo coso, un usuro mi ha già piazzato, però perché mi mancano le staffe lunghe per mettere l'altro. Ah, va bene. Bisogna andare a buscare le staffe, come c'era in cucina sono più lunghe, no? E tenere di più a chi sia più largo, questo fare una banca a Bari. No, già va bene. Ma le messo, ormai se te li hai? Una ne ho messo, l'altra ci vogliono le staffe più lunghe, se no non teni. Ah, ma l'hai messa quella più larga, l'hai messa, no? Eia, una ne ho messo, e boh, per il momento. C'ho anche l'altra, solo che mi mancano le staffe. E le staffe già ci sono, basta andare a prenderle quando esci, già ci sono larghe, ti misuri il piano che hai e le prendi uguali. E infatti. Tanto se devi appoggiare le cose, se no devi prendere le mensole con il tassello che entra dentro la mensola, che è più robusta, capito? Che entra dentro la mensola? Sì, sono le mensole e c'è lui in cucina, non si vede la staffa. Buchi il muro, c'è il tassello che avvita il coso che avvita nel tassello a muro, e poi ce l'ha messo la forata, entra dentro lunga, tassello lungo che entra dentro la mensola, non si vede quella scomparsa, quei tasselli è scomparsa. C'è lui in cucina e non si vede mica la cosa, capite? Cioè se vedi se la mensola attaccata al muro, boh, perché il tassello entra dentro la mensola. Ehi, vabbè, vediamo un po' là. Adesso per il momento ho già piazzato già questa. Ehi, va bene, che va bene. Tutti morti sono, non entra nessuno, sono tutti assenteisti, boh boh. Ehi, assenteisti, io perché sulla radio come avevo prima, diciamo, quindi vi sento anche quando parlate. Era tutto acceso poco fa, capito? Però secondo chi deve entrare, magari consigliare, ma far parte la tira spenta. Marco Condor sarà dormito con questo caldo. Ah, boh, se non sarà pranzando. Marcolino, ci sei? Magari drumi davvero. Sono calamaiato anch'io dopo pranzo. Se c'è un bel fresco dentro casa, mi sono sdraiato con la cameretta. Mi ho uscito dalla danzura. E anch'io ero coricato. Mi sono alzato poco fa. Piacevole adesso, panichella piacevole, invece chi ha fresco dentro casa si sdraia, capito? Una pellichella te la fai. Andrà bene me, la va. Ehi, intanto sono le 5 e mezza, ci sentiamo dopo, Natalia, ci siamo stravoluto la ginocchi. Vado a darmi una sciacquata, una rinfrescata, dai, è tutto acceso qua. E gira gira anch'io, là. Ci sentiamo più tardi al limite. Se entra qualcuno. Chiappa di Roggio, va bene che va bene. Dai, ci aggiorniamo dopo. Ok. Ciao ciao, Cla. Buon proseguo. Ia. Passo la frequenza, ici la station Delta Romeo della ville di Sassari. Oui, monsieur. Bonsoir. Ça va? Ça va combien, mon ami? Comment ça va, toi? Ça va, ça va. È all'ombra dell'ultimo sole, si era svegliato un pescatore. Oh, insomma, in realtà, adesso mi voglio rilassare 5 minuti. Rilassati. Io già mi sono rilassato stamattina, ogni asudori. Ora voglio andare a pescare, Natali. Oh, c'ho le canne da pesca che se ne stanno ridendo io qua. Io no, se non mi sento lì, ingrassate, fatte, pulite, contro la lenza, ancora buona, non la cambio. Perché c'ho quella lenza Fender, quella elastica, che è un burro. Se prendi gli incagli, perdi solo l'amo, però il resto non lo perdi, capito? Io ho capito. Mi ho piazzato la mensola qua, mi ho piazzato più larga, c'ho anche l'altra per mettere il piano di sopra, però negativo per il momento perché mi mancano le staffe, quelle più lunghe, là. Ma per la radio non c'è... E allora, era troppo stretta quella che avevo e mi veniva male. Adesso già l'ho messa più larga, questa qui. Basta che vai a Brico e te le fai fare su misura, te le fai tagliare su misura e te le fai come vuoi tu, capito? No, ce le ho già le mensole, la legna ce l'ho già, mi mancano le staffe lunghe, perché queste sono strette, è stretta la mensola e quindi è stretta anche la staffa e devo prendermi delle staffe più lunghe, diciamo così. Vabbè, là. Se ci stanno, va bene. Devo fare due piani così. Sono tre i piani. Però una la lascio così, tanto ci sono gli alimentatori sopra. E boh. Cavagala, se ci sta tutto bene così. E infatti quando sarà metteremo qualcosa qua, là. Quando passi. Se passo, se no ti rampo tutto. E io già passi, Natali, bisogna essere positivi. E io già sono positivo, già. Bisogna vedere gli altri se sono positivi, quelli dall'altra.